Signore e signori, le pillole del divertentismo di Sandrino, Nadia e Nicola. Willa willa willa, siamo tornati col famosissimo programma delle pilloline del sabato sera. Ci siamo, mi sento No, chiede Dave, non si può, non si può. succede quella esclamazione lì, è bellissimo. Nadia, ti capita mai di dire di no? No, raramente, quindi Nadia è... dipende da chi me lo chiede. Comunque scusate, ma abbiamo cominciato malissimo. Ah, grazie, lo sapevo. Perché innanzitutto bisogna dire un saluto festoso a tutti da Dave. Ero così felice che tutti... almeno questo mi era stato risparmiato. No, che stavolta l'avevano saltata. Sì, ma ormai è un institution. Sì, c'è gente che reclama la intro di Dave. Esatto. Poi salutiamo in questo momento Master Nick che ci sta ascoltando dal letto. Ah, dal letto? Probabile, però secondo me non ci sta ascoltando. Non è andato. Spero che non faccia questi incubi. Esatto, ma non è andato in Lettonia? No, dov'è che è andato? No, è andato da qualche parte. È andato all'estero? Sì, no? Secondo me alle 10 stasera è andato in Lettonia. Bellissimo. Comunque i miei figli me ne hanno detta una. Dai, sentiamo. Come si fa ad uccidere un orologiaio? Nadia? Aspetta. Colpendolo. Tra l'altro aveva detto aspetta, la sapeva, la stava per indovinare. Ma non è, no, ma siccome ti ho evitato una bruttissima figura, Nadia. No, non è vero, non faccio mai figura io. Aspetta, ne so una anch'io. Perché fai figurella? Esatto, sei molto figurella la Nadia, ecco. No, è africhella questa. Questa non l'ho capita. È vero, ci faccio un disegnino. Il radio poi suona bene. È il disegnino in radio, no, poi. Ho capito. Aspetta, spostiamo l'attenzione. Cerchiamo per una volta di non prendere di mira me. Sandrino. Esatto. Sandrino. Io ho spostato l'attenzione subito, guarda. Anche questo, per fortuna in radio non si vede. Tra l'altro, da un lato e dall'altro possiamo stare attenti entrambi. Siamo stereofonici. Ai. D'altronde sono due. Comunque siamo sintonizzati sui Twitter della Nadia, ecco che. Ecco, mi sentite un po' distratta perché mentre gli altri due chiacchierano a vanvera e comunque non produco niente di intelligente, io almeno sono giustificata perché sono impegnata. Pur essendo una bionda e multitasking. Esatto, riesce a fare e parlare. Curo la vostra immagine pubblica, quindi dovreste solo che ringraziarmi perché certi momenti non li riprendo. Esatto. Cioè voi dovreste ringraziarmi più per le cose che non faccio rispetto alle cose che faccio. E con questa, a buon intenditore. Aspetta che Dave approfitta del ruolo per passare. Ecco, che fai? Potevi dirmelo. Invece Dave ha approfittato di un appoggione incredibile. Ecco. Sì, però non è che si è sentito chissà sta che sta tirando roba, giù anche a mezza radio praticamente. ecco, si sta non è sentito il mio Samsung S8? No, secondo me l'hai lasciato sotto carica a casa. Era una matita. Sì. Una bicchiera. Però sai con le matite consumate, no? Sì. Che l'hai temperato, che hai temperato una vita. No, invece la mia era una multicolor. Quelle con, sai che il birone. E poi dopo quando diventi grande diventa il birrone. Sì. Ah, bella questa. Ecco, è incredibile come riusciamo sempre a non dire niente. No, come riusciamo sempre a far denigerare, ecco, le mie perle di saggezza. Questo ragazzo saluta solo allora, te, Nadia, non capisco. Ritorniamo a noi. Ecco. Cioè, più che altro a Sandrino, perché no, giustamente alla rubrica. Perché da quanto tempo è che non ti fai vivo? Io faccio il venerdì e la domenica. E la Grecia. E il Grest. Ah, pure? Sì, il ritiro spirituale, tutto. Intanto Nadia sta scrivendo anche gli amici nel frattempo. Aspetta, questo è un chiaro insulto. Sta, ecco, dicendo questo. Sandrino, vieni fuori se hai il coraggio. Io avevo ordinato una pizza, me l'hai portata... No, cioè, ammosciata. Ecco, vieni qua. Ho fame. Vedi il segno quello del braccio che sulla pancia che muove la mano, tipo go fama. No, se va più vieni qua di meno. Però è incredibile la quantità di persone che ci minacciano quando facciamo i cavoli nostri in radio. Cioè, è assurdo. No. Ma non capiscono che non possiamo rispondere, non li vediamo, non li sentiamo. Perché siamo vegetariani. Ah, sì? Se, io facciamo, se facciamo i cavoli. Ricordiamo che Nadia le patate, però. A me è venuto in mente anche. Invece i cavoli vostri si dice anche altre cose. Però essendo vegetariani sono cavoli. O perché siamo in radio. Ricordiamo che sei in astinenza? È vegana, è vegana. No, vegetariana convinta, quindi sono cavoli. Però. Ricordiamo che Nadia è vergana, è diverso, è con una nuova. Ah, ecco. Una nuova. Nel senso che mangio. No, verzana. Nel senso che guarda che poi dopo deve fare delle. In Lettonia. Vabbè. Allora parliamo della situazione sociopolitica attuale. No, in realtà erano le chicche, no, le pilloline, non della serata. Esatto. Cosa è successo di strano stasera? Cosa è successo? Qualche personaggio, qualcosa. Beh, il doppio addio cieli nubilato. Cieli nubilato, sì, esatto. Che abbiamo confuso Lucia con Luca, Luca Lucia, una cosa del genere. Con chi era Renzo e Lucia? Ah no, quello era un'altra cosa. No, aspetta, non nominiamo nessuno, anzi. Li nominate, lo sapevo. Bello, bravi, siete stati bravi. Sui prosposi messi di Alemanzo Sandroni, io ero bravissimo, eh. Grandissimo. Mamma mia. Quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno, tra una catena di monti non interrotta. Sì, ecco. Sì, sì. Ecco. Come si chiamava il prete? Don Abbondio. La sala. Adesso vi stupirò anche. Sì. E i cattivi? I bravi. Ragazzi, guardate che io sì. ho fatto le scuole alte, cavoli. Sì, perché se la tira che è da Bolzano. Alternativa, viene da Bolzano, è vero? Nato in questo senso. Esatto. Tra l'altro si sta auto guardando anche. No, visto, ragazzi, allora è l'Instagram del convento e vi sto taggando. Però e io stiamo già taggando. Questo è l'Instagram del convento. Bella questa. Bella. Riusciamo a farla. Certo, facciamo tutto. Mr. Dave è anche un musicista. E quindi dai Dave, dacci là. L'Instagram del convento. Che io stiamo già taggando. Aspetta, signori, scusate, aspetta. Quindi allora, abbandoniamo la radio. Ok, pronti? Aspetta. Per la serie la verdura, frutta e verdura. Ok, esatto. Cavoli nostri. Aspetta, faccio io l'annuncio e poi voi iniziate a ballare, ok? Fai l'annunciatrice? Sì. Vai. Ok, prima non ci siete, poi vi inquadro e devi avvicinarti. Quando mi avvicino, più di così. Aspetta. Prima non ci siete, aspetta. E non mi si allunga più di così il microfono, dopo. Io mi avvicino di più. Aspetta, Dave, approfitta ancora per passare dietro a Nadia. Allora, aspetta. Ci stringiamo? Ok, no, aspetta, prima no, ragazzi, prima annuncio ufficiale. Allora. Pronti? Siete pronti? Siamo pronti? Bellissima questa radio. Signori, sono contenta di presentarvi una nuova hit che uscirà tra poco. Ve la facciamo sentire in anteprima. Prego, signori. Vai Dave. Non me la ricordo più. Ragazzi, non me la ricordo più. Dura pochissimo. Duri pochissimo Dave. C'è la mentele da Nadia. Ecco. Saluta la sombra. Io sotto stress. Sta salutando le pressioni. Allora, questo è l'Instagram del convento. Questo è l'Instagram del convento. Perfetto. E vi stiamo già taggando. Oh, ok, dai. Ok. Pronti? Signori, appena entrate nella classifica, un nuovo singolo che vi faremo sentire in anteprima. Questo è l'Instagram del convento! E vi stiamo già taggando! bella. Spettacolo. Momenti toccanti, sì, veramente. Sì, toccanti. Ancora? No, che fai? Ragazzi, è una vita. Ragazzi, con Federica. Vi chiedo di rifarlo. Di nuovo? Ti è piaciuto così tanto? Sì. Va bene, allora anche per gli amici a casa che ci stanno ascoltando. Contentissimi. Gli amici a casa? No, si stanno già taggando. Da casa. Gli amici da casa. Ma si stanno già taggando. Ok, allora. In diretta radio per presentarvi un nuovo singolo. No, what? Ragazzi, deve essere. Dave, parti che sei il musicista te. Non lo so, il nuovo singolo deve entrare. Quindi deve incontrare Dave. Mia, ascolta, ma fai una cosa, possiamo cambiare posto io e te? Vuoi fare la scambista? Okay. Dai. Attenzione, abbiamo uno scambismo. Attenzione, Nadia. Rabbrividisco. Okay. Va bene. È più corto questo? Ok. Eccoci. Pronti? Aspetta, cosa devo dire? Questo è l'Instagram del convento. E noi stiamo già taggando. Bellissimo. Pronti? Ma tutti insieme, allora anche te, Nadia. Sì, però io faccio l'annuncio come se fosse tipo un nuovo. Vuoi fare l'annunciatrice? Di solito fa la passeggiatrice. Non lo so, il signori. Non ci ho sentito, meno male. Come che annunciano i nuovi singoli? I nuovi singoli? I nuovi singoli, signori, ecco i nuovi singoli. cioè dovresti... siamo praticamente io e te, Dave, siamo single adesso. Piacere, siamo io e Dave, i nuovi singoli. Ecco, lui non viene, l'ho mai fatto. Lui viene dalla bruciata, io sono nuovo. Nuovo. Pochi chilometri. Esatto, un usato ma tenuto bene. Ecco. mantenuto più che altro. Ecco. Che fai, Nadia? Ti stiamo aspettando? Un attimo. Ecco, sì. Un attimo. Non era... Pronto? Pronto? Siamo? Stai attento. Questa serata passerà per la storia come la serata in cui annunciamo... La fine della batteria, la fine della batteria. Cazzo, del telefono di Nadia. Non dire le parolacce in radio, Nadia. Ecco. Oh, scusa, porca scusate. Puzzola! Puzzola! Ecco. Ci siamo? Sono lieta di annunciare un nuovo singolo. Eccolo qua. Questa è l'Instagram del confetto. Che spavento, cazzo. Mi sono spaventato. Mi sono spaventato. Ma mi hai fatto spaventare, te. Ragazzi, io sempre niente, qui dobbiamo chiudere la trasmissione. Sì, effettivamente sono 10 minuti. Che ecco. La gente sta dicendo, ecco, ma pensa la gente che ha speso umore. 10 minuti della sua vita per ascoltare. Vi ringraziamo tantissimo. Esatto, non abbiamo detto niente delle chicche della serata, anche se in realtà era questo. È stata una serata, guarda, credeteci, ecco, sulla parola. Nadia giustamente si è richiesta. Credeteci, ecco, ecco, sulla parola, che è stata una serata veramente chiccosa. Molto chiccosa. Sì, esatto. Ecco. Oserei dire troppo chiccosa. E se dovete venire al convento, venite, perché ve lo garantiamo noi. Ecco, potete tranquillamente chiedermi in privato quando non ci saranno Sandrino e Dave. Esatto. Così almeno possiamo garantirvi la buona riuscita della serata. Sentitevi liberi, offriamo anche questo servizio qua. Perfetto. Chi va a spegnere le batterie di Luca? E non agitatevi prima dell'uso. Agitatevi durante l'uso. Ciao, e non ragazzi. Fatene un abuso. Ciao ragazzi. Ciao da Sandrino. Da Nadia. E fa un no, pensavo che ce la fossimo cavata oggi. Ciao, invece ciao. C'è. Ciao ciao.